se il vento che entra nel pomario vi rimena l'ondata della vita. Qui, dove affonda un morto sviluppo di memorie, orto non era, ma reliquiario. Il frullo che tu senti non è un volo, ma il commuoversi dell'eterno grembo. Vedi che si trasforma questo lembo di terra solitario in un crocevolo. Un rovello è di qua dalle arture. Se procedi ti imbatti tu forse nel fantasma che ti salva. Si compongono qui le storie, gli atti scancellati per il fuoco del futuro. Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi. Va, per te l'ho pregato, ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine.